9 in punto. Buongiorno, bentornati da Gianfranco Fabi. Oggi martedì 16 agosto inizia la seconda parte del mese e inizia sotto l'egida, diciamo, della manovra economica approvata venerdì scorso a mercati chiusi dal governo. Il primo impatto sui mercati della manovra è, diciamo, abbastanza limitato. A Milano, come avete sentito dal GR, l'avvio è stato fiacco, meno 0,21%, ma un po' tutta Europa è fiacca, tutte le borse, Francoforte, Londra e Parigi stanno segnando appunto dei segni negativi, ma molto molto limitati. Pesano i dati tedeschi, la crescita nel secondo trimestre in Germania è stata più limitata del previsto, ma resta il fatto che comunque la Germania nel 2011, in quest'anno, dovrebbe crescere del 2,8%, che non è una crescita tutta da rispettare, soprattutto se pensiamo all'Italia, che non crescerà se non tra lo 0 e l'1%, almeno secondo le ultime previsioni. Proprio la crescita è uno dei temi di fondo, è una delle critiche che vengono più fatte alla manovra, una manovra che mira a mettere in sicurezza i conti pubblici, ad anticipare il pareggio di bilancio del 2013, ma lascia appunto questa grande incognita sul fatto di poter sostenere la crescita, e la crescita sarebbe una parte della soluzione dei problemi di un paese come l'Italia. Il debito pubblico non è il più grosso problema è proprio quello che da 15 anni l'Italia è in stagnazione, e risolvere questo problema, avviare una nuova fase di sviluppo, sarebbe fondamentale anche per affrontare il tema dei conti pubblici. Ma di questo parleremo oggi nel nostro 9 in punto. Saluto gli ospiti, Alberto Rioli. Buongiorno Rioli. Buongiorno. Vice direttore del Sole 24 Ore, Sole 24 Ore ha seguito con ampiezza di spazi e seguirà ancora di più questa settimana proprio l'analisi di queste misure economiche che spaziano un po' dappertutto, Rioli, dalle famiglie alle imprese alle province, praticamente nessuno è escluso da questa manovra. Esatto, nessuno è escluso, tutte le categorie sociali sono coinvolte, tutti i livelli istituzionali saranno coinvolti da questa operazione di Ferragosto, e il Sole 24 Ore non farà mancare il suo contributo di servizio e di analisi per entrare nel dettaglio di tutte queste misure, che vanno tutte spiegate, che hanno impatti che forse ancora non abbiamo tutti ben compreso, ma che sono dirompenti. Ecco, in borsa l'impatto, per esempio, c'è sull'Enel. Una delle misure è la cosiddetta Robin Hood Tax, che colpisce proprio le società energetiche. L'Enel perde il 3-5% alla borsa di Milano. Saluto gli altri ospiti, Rinaldo Gianola. Buongiorno Gianola. Buongiorno a voi. Vice direttore dell'Unità, giornalista, Stefano Cingolani. Buongiorno Cingolani. Buongiorno. Cingolani, editorialista del Foglio di Panorama. Ecco, Stefano Cingolani, proprio nell'ultimo numero di Panorama, ha fatto una panoramica dei protagonisti all'esterno, cioè dei grandi paesi, da Sarkozy alla Merkel a Obama, Bernanke della Fed, dando un po' le pagelle come si sono comportati all'estero. Forse potrei cominciare a chiederti come può essere la pagella per come si sono comportati in Italia. Ma la pagella diciamo, sfiora la sufficienza, soprattutto insufficiente sulla crescita. Già detto prima, io sono assolutamente d'accordo. Secondo me rischia di diventare insufficiente, vedo già le polemiche, le discussioni. Naturalmente tutti hanno il diritto di cambiare, di modificare, di fare le proprie proposte, però il tipo di dibattito che si sta cominciando a vedere, insomma, è Ferragosto, ma insomma no, il tempo si vede dal mattino se è bello o brutto. Mi pare che il dibattito ci faccia andare verso l'insufficienza. Io vi sto parlando dalla Svezia, dove sono in vacanza, ho seguito le vicende di questi giorni, ne ho parlato con alcuni miei amici, conoscenti, insomma gente che lavora nel campo delle imprese, nell'economia, editorialisti di Douglas Industry, che è il corrispettivo del Sole 24 Ore. Mi interessava capire qual era la percezione che si aveva da qui della crisi italiana, e ahimè la percezione è che ce lo siamo meritato, insomma, un po' come la Grecia. Naturalmente io dicevo, ma no, le cose sono diverse, la Grecia ha imbrogliato i conti, eccetera. Sì, è vero, mi dicono, però voi avete messo la polvere sotto il tappeto, in tutti questi anni, anche prima della crisi, ma soprattutto quando è scoppiata la crisi, quest'idea che voi ve la cavavate meglio degli altri, che avete fatto meglio degli altri, insomma, francamente non era credibile, da qui non era credibile, io penso che era poco credibile anche dall'Italia, insomma. Quindi la pagella che danno qui in Svezia, appunto, gente, diciamo, che segue attentamente anche le nostre vicende, è insomma il giudizio fondamentalmente è abbastanza mediocre, insomma. Sì, si sono fatte adesso delle cose un po' in fretta, frettolosamente, all'ultimo momento, si dovevano fare prima. Ecco, questa analisi, la parte che vede l'Italia come un paese debole, dall'altra che fa le cose un po' in fretta, in fondo si parlava da tempo di misure, tra l'altro un'altra manovra economica era stata appena varata non più di un mese prima, ecco, certamente fatta in fretta, certamente anche i mercati chiedevano di differenziare tra BTP e Bund, era arrivato a livelli indubbiamente pericolosi per la gestione del bilancio pubblico italiano, ecco, però queste misure adesso iniziano un iter parlamentare, almeno la promessa del governo è che si possa nell'ambito dell'iter parlamentare aggiustare qualcosa, ecco, tenendo fermi i saldi, come si dice, tenendo fermo cioè il risultato finale di risparmi e l'obiettivo finale di raggiungere il pareggio di bilancio del 2013. E vorrei chiedere a Rinaldo Gianola se dal suo osservatorio, vice direttore dell'Unità, ritiene possibile un rapporto finalmente costruttivo tra maggioranza e opposizione per arrivare con realismo più che da fronti contrapposti ad aggiustare questa manovra, Gianola. Ma non penso che sia possibile un rapporto più costruttivo di quello che si è realizzato ad esempio nell'ambito della votazione della prima manovra da 48 miliardi che venne approvata nel giro di un weekend proprio sulla sollecitazione, il diktat dei mercati e anche, diciamo, la moral suasion del Presidente della Repubblica. Lì l'opposizione non ha fatto il suo dovere, si è limitata a far passare il provvedimento di Tremonti e di Berlusconi, dopodiché a lunedì ci siamo accorti che non bastava e che i mercati e la BCE soprattutto volevano ben altro. Quindi probabilmente le occasioni di collaborazione ci sono già state, ma non si sono manifestate, mi sembra, da parte del governo. Io mi auguro, devo dirti la verità, che a questo punto ognuno faccia il suo lavoro, cioè ognuno faccia la sua parte. Il governo e questa maggioranza, se è in grado di far approvare il decreto, questa maxi manovra, lo faccia, e l'opposizione faccia fino in fondo l'opposizione. Cioè, io sono contrario in modo esplicito che ci siano altre forme cosiddette di collaborazione tra opposizione e maggioranza, perché ritengo che questo governo sia un danno per il paese, un totale disastro, ne ha combinate di tutti i colori. Cioè, noi stiamo parlando di una manovra che intacca profondamente il reddito, la vita, le abitudini dei cittadini, delle imprese, degli enti locali, no? Poi potremo intervenire naturalmente per valutare gli articoli buoni, quelli meno buoni, insomma. Però fino a 2 settimane fa questa era la stessa maggioranza che occupava il Parlamento con il processo lungo. Cioè, noi siamo un paese completamente privo di credibilità, ma non perché le imprese, il mondo del lavoro, le istituzioni non funzionino, perché ci stavamo occupando d'altro nel momento in cui ci stava bruciando la casa. Ed è stato così per questi 3 anni di governo. Le responsabilità del debito pubblico e del deficit certamente non sono attribuibili solo a questa maggioranza, a questa legislatura, vengono da una lunga storia e nessuno può negare. Ma detto questo, negli ultimi 3 anni noi abbiamo vissuto sembravamo di stare nel nirvana, come dicono certi economisti, no? In una situazione dove tutto va bene, ma in realtà stavamo vivendo sul baratro, sul burrone, nel disastro totale. E all'improvviso ci siamo destati, o ci hanno destati, e sono arrivate queste 2 manovre una in fila all'altra. Io ho la sensazione anche, poi oggi i mercati sono, diciamo, in clima di Ferragosto, ci vorrà ancora qualche giorno per valutare pienamente tutti i provvedimenti. Ho la sensazione che anche questa manovra enorme, che avrà un impatto enorme sulla vita soprattutto del ceto medio, del lavoro dipendente, non basterà, perché manca sostanzialmente uno dei pilastri su cui si dovrebbe realizzare una manovra economica di rientro del deficit e di correzione del debito, cioè la crescita. Ecco, questo è il punto di fondo, non c'è un indubbiamente. Tubo, non c'è un tubo per la crescita. E se posso aggiungere, scusa, un'ultima cosa, in realtà dentro il testo del decreto, di questo enorme documento, c'è un articolo che si chiamano misure a sostegno dell'occupazione, che indicano, diciamo, una strada per favorire l'occupazione. E quello, secondo me, se posso usare un linguaggio di Calderoli, è invece la porcata classica infilata all'ultimo momento dentro il provvedimento, dentro il decreto. Modifica sostanzialmente le relazioni industriali, fa saltare e supera l'accordo del 28 giugno tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria e soprattutto inserisce una norma ad aziendam esclusivamente per la Fiat. Qui nessuno dice niente, ma qui stiamo modificando il diritto del lavoro, le relazioni industriali, e questo lo fanno con un decreto, ma qui non ci siamo, ragazzi. Cioè, se dobbiamo, come dire, se l'opposizione, parliamo dell'opposizione, se l'opposizione deve fare una battaglia responsabile in questo momento, responsabile, è quello di buttare giusto governo. Non c'è alternativa. Ecco, questa è la nota politica, Gianola, indubbiamente, però nel momento in cui, come giustamente dicevi, la casa brucia, poi dentro ci siamo un po' tutti, forse sarebbe il caso anche di por mano agli estintori e poi magari di discutere su come ricostruirla, però è anche un momento in cui una partecipazione ad avere il risultato, poi a mettere gli estintori, a puntarli nel punto giusto, indubbiamente, e non ad approfittare della situazione per qualche cosa di particolare. Ecco, questa manovra è una manovra complessa, ha anche alcuni elementi su cui si è discusso a lungo nei mesi scorsi. Quelle delle relazioni industriali, per esempio, è stato un argomento di discussione e indubbiamente si è approfittato di questa manovra per fare quasi una sanatoria su quel fronte, per introdurre questi elementi che indubbiamente aiutano a superare un problema di rapporti all'interno della Fiat. Io vi ricordo l'800 24 00 24, il numero verde per le vostre chiamate e per i messaggi SMS, ne stanno già arrivando molti e molti sono centrati sul contributo di solidarietà, questo aumento delle imposte per i ricchi al di sopra del reddito di 90.000 euro è visto in maniera molto critica dagli SMS che stanno arrivando al 349 238 6666. Però vorrei, prima di lasciare la parola agli ascoltatori, chiedere ad Alberto Rioli: il punto debole di questa manovra è proprio la crescita, mi sembra. Il punto debole è sicuramente la crescita, non c'è nulla salvo qualche cenno a liberalizzazioni e eventuali privatizzazioni di aziende municipalizzate partecipate dai comuni, che è una buona cosa, ma avrà un iter lunghissimo e non dà effetti immediati. E poi l'altro fronte di debolezza è che, qui poniamo mano al cappello, dobbiamo dire che ci sono questi 600.000 eroi fiscali che hanno sulle spalle sostanzialmente il carico di questa tassa di solidarietà. Ecco, sono obiettivamente pochi. Peraltro, che non avrà un grande gettito, perché si parla di poco meno di 1 miliardo, quindi non è risolutiva, è più un gesto, non dico simbolico, perché poi il peso su queste persone è effettivo e reale. Però ecco, l'alternativa della patrimoniale era un'alternativa praticabile? Ma immagino di sì, certo non quella che nottetempo magari fa fette i conti correnti delle persone, questo sicuramente no, ma probabilmente un'operazione più oculata e più equa sugli altri elementi dei patrimoni avrebbe potuto avere più senso, soprattutto con un po' più di tempo sarebbe stata disegnata meglio, presumo, e magari avrebbe avuto anche sicuramente molto più gettito. Detto questo, l'altro punto debole della manovra, da quello che si comprende, sono i 6 miliardi di tagli in capo ai ministeri. È una voce estremamente vaga. In passato sono state messe poste più o meno simili e non sono stati mai raggiunti i risultati. In questa manovra non è scritto come saranno effettuati questi tagli, viene solo posto l'obiettivo e poi si vedrà. È una cosa molto molto aleatoria. Anche perché già i ministri hanno messo le mani avanti, già Roberto Maroni, ministro dell'Interno, giustamente ha detto non si taglieranno i fondi per la sicurezza, il ministro di Grazia e Giustizia ha detto non si dovranno tagliare, anzi dovranno essere aumentati i fondi per l'edilizia carceraria, per appunto anche per la riforma della giustizia, quindi sarà un po' difficile trovare questi 6 miliardi. Beh, dovremmo, sicuramente assisteremo alle consuete diatribe di Consiglio dei Ministri, dove ciascun ministro tagliato, diciamo così, strepiterà e chiederà di non essere coinvolto nell'operazione di razionalizzazione dei conti, perché ovviamente quello che fa il suo ministero è prioritario e fondamentale, come tutti i ministri pensano di fare cose prioritarie e fondamentali, è evidente. Ecco, un messaggio ci dice la tassa, questa tassa appunto di solidarietà è anche incostituzionale perché è retroattiva, cioè riguarda i redditi che abbiamo già riscosso, ma mi pare che nella manovra c'è però una clausola che dice che è fatta in deroga anche allo statuto del contribuente questa tassa. Sì, esattamente, sì, è così, è stata fatta in deroga allo statuto del contribuente, e questa è già una prima cosa che ha una sua certa sgradevolezza, diciamo così. Poi sì, è stata corretta con l'eventuale deducibilità successiva, ma insomma è un'operazione francamente mal disegnata, nel senso che non colpisce in modo equo i super ricchi cosiddetti, perché i super ricchi stanno fuori da questo tipo di fotografia fiscale. Queste 600.000 persone sì, hanno redditi ovviamente ragguardevoli e sicuramente dovrebbero essere coinvolte in ogni caso in una manovra di razionalizzazione fiscale, ma forse ci vorrebbe un segnale più forte su chi è fuori dalla fotografia del fisco e continua a rimanere fuori dalla fotografia del fisco. Ecco, la Borsa di Milano accentua un po' le sue perdite, ha raggiunto l'1% di calo, l'1,28%, ci sono in rialzo i titoli bancari, ma questo anche per effetto della misura adottata venerdì scorso di blocco delle vendite allo scoperto sui titoli bancari, quindi tutti i titoli bancari stanno crescendo, anche se non in misura eccezionale. Intesa San Paolo 1,2, UBI più 2,65%, Banco Popolare più 2,76%, mentre come vi dicevo anche prima, sono in forte flessione tutti i titoli del settore energetico, proprio in previsione di questa nuova Robin Hood Tax prevista dalla manovra correttiva del governo. Terna cede l'8%, Snam Rete Gas l'8,6%, l'Enel il 2,76%. Ecco, Alberto Ioli, non è molto bello che un governo parli di Robin Hood Tax. Robin Hood è qualcuno che scendeva dagli alberi di notte e rapinava, magari rapinava i ricchi per darli ai poveri, però l'effetto un po' della rapina c'è. Beh, è esplicitato nel tipo di slogan scelto, effettivamente, no? Il problema è che i poveri soggetti che vengono coinvolti nell'espropriazione, diciamo così, che si sentono per l'appunto soggetti negativi, come dire, attori negativi della società. Ovviamente non è vero nulla di tutto ciò. Il problema è che in questa nuova versione della tassa coinvolge anche tutte le esperienze delle energie alternative, quindi è particolarmente punitiva per il settore, non c'è dubbio. Sentiamo degli ascoltatori. Roberto da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Condivido lo fastidio per il contributo di solidarietà, perché come diceva prima il quadro non è completo e si colpiscono i soliti noti. Due modestissime proposte a livello da abecedario sono molto più facilmente diciamo eseguibili e sarebbero molto più eque. Le accenno, se è consentito. La prego. Titolari di partita IVA e professionisti iscritti agli albi, un contributo di solidarietà di 1.000-1.500 euro o 2.000 secondo fasce di reddito, e esentando i sotto trentenni o i sotto 35 anni, per consentire a chi si è appena affacciato sulla professione di non essere immediatamente colpito, e poi diciamo per 5 anni 1.000-1.500-2.000 euro annui di secondo le fasce di reddito di imposta straordinaria. Non parlo di numeri ridicoli, solo per gli avvocati abbiamo 240.000 iscritti agli albi, questo per quanto riguarda un primo profilo. Secondo, contributo di solidarietà, questo paese ha un certo numero non indifferente di pensionati con 16 anni di anzianità e 6 mesi, 20 anni di anzianità, tolti gli invalidi, tolti i lavori usuranti, tolti eventuali casi umani sul piano veramente umano, un contributo di solidarietà si può chiedere a queste persone che dall'età di 45 anni fino al momento in cui diciamo chiudono gli occhi sono per larga parte della loro vita restante a carico della collettività e spesso diciamo si dedicano al lavoro nero. Grazie, due ipotesi di lavoro, giriamo ovviamente al governo: tassare le partite IVA con un piccolo contributo e tassare le pensioni che non sono conseguite attraverso appunto i classici 40 anni di lavoro, due ipotesi forse non alternative, speriamo che magari se vengono prese diventino alternative e non siano aggiuntive rispetto al carico fiscale che è già molto elevato. Giorgio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Allora, io non voglio entrare in merito nella manovra, però voglio mettere in evidenza, secondo me, un comportamento, forse me lo spiegate con i giornalisti, differente tra due fasce sociali che sono più o meno identiche. Allora, c'è stata una arrivata di scudi nei confronti da parte dei giornalisti, domenica Corriere della Sera ha dedicato, non so, 10 pagine, sul il contributo di solidarietà delle persone che guadagnano oltre i 90.000 euro. Che, come si dice, sono più o meno 4.000 euro netti al mese. Bene, l'altra manovra, quella di luglio, il governo ha bloccato le pensioni superiori a 5 volte la pensione minima. Allora, io ho lavorato 40 anni, ho una pensione che non supera i 4.000 euro, io ho versato all'INPS, ricordiamoci che l'INPS non è lo Stato, è un ente che ha ricevuto i soldi dai privati, quindi da me 10%, 20% dalla mia azienda. Allora, nessuno di voi ha detto niente, quando, anche col governo Prodi ovviamente questo è successo, non ha detto assolutamente nulla quando hanno bloccato l'adeguamento della pensione, perché era una pensione d'oro, quindi dai 2.000 ai 4.000 euro, dai 2.300 euro, 4.000 euro lordi, era una pensione d'oro e quindi vuol dire che sono un ricco. Chi guadagna 4.000 euro non è un ricco. C'è una sola differenza, che nei 90.000 euro tocca ai giornalisti, e voi giornalisti che siete una cassa, sia di destra che di sinistra, avete attaccato questo provvedimento. Beh, i giornalisti prima o poi, mi scusi, ma i giornalisti prima o poi diventano anche pensionati, quindi dovrebbero difendere anche le proprie pensioni, quindi mi sembra che, io raccolgo ovviamente la sua critica, però anche i giornalisti cercano di interpretare un po' quello che è il sentimento delle persone, il sentimento dei lettori, non cercano solo di difendere i propri interessi. Comunque, la prego. Scusi, perché lei quando andrà in pensione prenderà come una pensione d'oro come la mia, che ho lavorato 40 anni e lavoravo a un livello abbastanza alto, devo dire, certamente, va bene, però siccome io sono pensionato e non ho un adeguamento per i premi di bilancio, tutto quello che vuole, ho solo l'adeguamento del costo della vita, mentre chi è che lavora attualmente ha in ogni caso la possibilità di avere i premi di bilancio in compagnia bella. Ma voi, siccome vi ha toccato in questo momento, che poi sono dai 500 a, che ne so, ai 2.000 euro l'anno, insomma, vi siete arrabbiati, vi siete scatenati, qualunque giornale, sia di destra che di sinistra. Bentornati a 9 in punto, stiamo parlando della manovra del governo, la manovra varata venerdì scorso a mercati chiusi, una manovra importante, una manovra che prevede molti interventi dal profilo appunto personale, con queste nuove tasse di solidarietà oltre i 90.000 euro, dal profilo istituzionale con la riduzione delle province, con il taglio ai trasferimenti dei comuni, con l'eliminazione dei piccoli comuni, tante altre misure sul fronte del lavoro, sul fronte delle festività, un insieme di misure destinate a far raggiungere all'Italia il pareggio di bilancio nel 2013. Ovviamente molti pareri diversi, molti pareri anche critici su quello che si poteva fare di diverso, su quello che si poteva fare e non si è fatto. Abbiamo sentito appunto anche altre proposte alternative, direi che benvengano tutte le proposte se aiutano appunto a rendere più equo una manovra. Quello che è reale è che qualcosa bisogna fare. Forse bisognava farlo in maniera un po' più studiata, un po' più meditata, per esempio questa abolizione delle piccole province appare un pasticcio. Abbiamo addirittura tre regioni, l'Umbria, il Molise e la Basilicata, che si ritroveranno con una sola provincia e quindi la regione coinciderà con la provincia, e qui se non è un pasticcio istituzionale è qualcosa di simile. Forse sarebbe stato meglio abolire tutte le province e in modo da consegnare alle regioni maggiore sovranità. Questo sarebbe un discorso più più lungo, ma molti messaggi si concentrano, il nostro 349-238-6666, proprio sulle tasse, sulle maggiori tasse. Bisogna far pagare le tasse agli evasori, questo è un tema di fondo, un tema che si ripercorre, ne abbiamo dedicato anche una trasmissione settimana scorsa. Ecco, io vorrei chiedere a Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità, e a Stefano Cingolani, editorialista del Foglio di Panorama, se questa insistenza sull'evasione fiscale sia veramente risolutiva o se invece l'evasione fiscale dovrebbe essere un'ordinaria amministrazione da parte dello Stato, essere qualcosa di coerente, di continuo da destra e da sinistra, perché pagare le tasse è un dovere di tutti e non dovrebbe essere qualcosa di eccezionale per risolvere un problema eccezionale. Rinaldo Gianola. Ma se c'è questa sollecitazione così forte sull'evasione è perché l'evasione è veramente una metastasi che distrugge questo paese ormai da tempo. D'altra parte gli interventi che sono stati fatti in questi anni sono state soprattutto delle sanatorie nei confronti degli evasori fiscali o di chi esportava all'estero i capitali, hanno potuto farli rientrare con pagando una specie di mancia allo Stato e mantenendo l'anonimato. E questi si tratta di interventi, secondo me, che poco hanno a che fare con la disciplina fiscale, con il rigoroso rispetto delle leggi e soprattutto con la possibilità di condividere con i cittadini, con tutti i cittadini, anche un'impostazione di sacrifici come nell'attuale manovra. Cioè, nel momento in cui tu, governo, ci vieni a chiedere al lavoro dipendente, alle partite IVA, alle istituzioni locali, ai comuni, alla sanità, dei contributi che sono veramente molto pesanti per ciascuno di loro, beh, ci vuole qualche segno opposto, evidente, ad esempio sia sui costi della politica, ma sia soprattutto contro l'evasione fiscale. Insomma, gli interventi di questi giorni hanno poco a che fare contro l'evasione fiscale, diciamo la verità. Abbiamo degli slogan, ma poi nella sostanza se teniamo conto dei dati che dà ogni anno l'Agenzia delle Entrate sul reddito non dichiarato, noi potremmo diventare un paese tra i più ricchi al mondo, non ci sarebbero bisogno di manovre correttive o di rientro del debito. È stato fatto veramente troppo poco, e il senso di ingiustizia che dà questa manovra nasce proprio da questi fatti, cioè si colpiscono sempre i soliti, si scarica sull'IRPEF, sulla sanità, sul ticket, sugli enti locali e sul dipendente pubblico, che a questo punto viene considerato quasi un criminale, tant'è che gli si dice guarda che non ti pago la tredicesima e non ti pago nemmeno il TFR, mentre i soliti signori la fanno franca, non c'è niente da dire di più. Io sono del parere che, guarda, non ho niente in comune con Luca di Montezemolo, no? Chiudiamo l'intervista che ha fatto sul Corriere della Sera e facciamo diventare l'intervento della manovra correttiva. Io sono d'accordo. Si chiede a tutti un contributo, certamente, ma devono pagare gli evasori e quelli che hanno più soldi, quelli che sono più ricchi. In un sistema democratico funziona così, perché se si continua a dare legnate a quelli che stanno sotto, prima o poi quelli che stanno sotto a un certo punto si incavolano. Avete visto cosa è successo in Grecia? Avete visto l'esplosione di violenza ingiustificata che ci sono state a Londra? Che cosa ci fa pensare che questi fenomeni non possano accadere anche in Italia? È una situazione, è una manovra profondamente ingiusta, veramente, che si accanisce contro le persone che già pagano realmente le proprie tasse, danno i propri contributi allo Stato. E così non può funzionare, perché si rompe il patto democratico tra cittadini e governo. È una violazione sistematica di un diritto fondamentale dei cittadini, questo. Fammi vedere, caro governo, che colpisci tutti allo stesso modo, che fai pagare chi ha di più qualcosa di più e soprattutto chi sgarra, come in America, finisce in galera. Qui non si vede mai niente di tutto questo. Cioè, il nostro Madoff non c'è mai, non si scopre mai, eppure ci sono. Ecco, ma il punto è proprio questo: l'evasione fiscale è qualcosa che va combattuto, che va ovviamente repressa, ma nell'ambito di rapporti costruttivi tra i cittadini e il fisco, di rapporti anche di fiducia del fisco verso i cittadini, senza appunto misure poliziesche che peraltro rischiano di ingabbiare poi l'attività economica, come spesso accade. Per questo quello che voglio dire è che secondo me l'evasione fiscale dovrebbe essere un'ordinaria amministrazione del governo e ha poco senso rifangarla quando si devono prendere delle misure straordinarie. Misure straordinarie devono riguardare giustamente la totalità dei cittadini, e chi ha di più deve pagare di più, ma senza appunto pensare che l'evasione fiscale sia un elemento risolutivo. Stefano Cingolani. Ma c'è una dimensione etica dell'evasione, che è quella che diceva Gianola, e insomma sono d'accordo, sicuramente molto importante, però c'è una dimensione, chiamiamola così, economica. Insomma, sono decenni che si dice lotta all'evasione, i governi hanno fatto più chi meno, alcuni più niente, altri hanno dato dei contributi, insomma anche da questo governo sono arrivate dei recuperi di evasione, però secondo me è una lotta impari se non si affronta la questione di fondo, che è la riforma fiscale. Il punto dal quale non possiamo sfuggire è questo: se ne discute da anni non si riesce a fare niente. È possibile fare una riforma fiscale adesso, sotto l'emergenza, in questa situazione? Ma io sono convinto che è possibile fare qualche cosa, lanciare, naturalmente stabiliamo che a parità di gettito, no? Come si dice, cioè non si possono ridurre le entrate nel loro insieme, le entrate fiscali, però all'interno si possono fare cose che lanciano dei segnali importanti, rivedendo per esempio anche l'imposizione diretta, e quindi tutto il discorso sull'IRPEF che è stato fatto da tanti anni, ma anche dall'opposizione, intendiamoci. Io ricordo che anche sul Foglio abbiamo fatto un dibattito chiedendo all'opposizione, ai vari esponenti del PD e degli altri partiti, persino Carlo De Benedetti è intervenuto, no? Per esprimere questo concetto che secondo me è chiave: spostare l'imposizione dal lavoro al consumo, dal lavoro, dal profitto alla rendita, insomma diciamo un'operazione complessa al centro della quale sono poi le due diciamo l'IRPEF e l'IVA, insomma i due pilastri del sistema fiscale italiano. Io ho visto queste polemiche sull'IVA, oggi c'era sui giornali, Berlusconi dice che l'IVA adesso è recessiva, prima era inflattiva, insomma secondo me la questione dell'IVA resta da affrontare. Io avrei preferito una manovra sull'IVA, francamente, insomma, anche perché in Europa c'è una sorta di competizione che passa attraverso il fisco. La Germania ha alzato l'IVA, la Francia, si sa che in Francia l'imposizione indiretta è molto più importante di quella, o perlomeno è alla pari con quella diretta, e una manovra sull'IVA sarebbe stata pro crescita. Ecco, questo è un problema aperto. In questo momento l'inflazione non c'è, diciamo, è certo. Limitata, insomma, no? E fondamentalmente sarebbe stata pro crescita perché noi importiamo la maggior parte dei prodotti di consumo che tirano, si pensi ai telefonini, le elettroniche, i computer, eccetera, vengono dall'estero, noi li importiamo dall'estero, i beni intermedi, come si dice, sono importati dall'estero. Un aumento dei consumi in Italia in questo momento crea uno squilibrio di bilancio dei pagamenti, perché la capacità produttiva italiana è inferiore al necessario, insomma, per tutte cose diciamo che... Certo, è un discorso che potrebbe appunto portare anche lontano, però non dobbiamo dimenticare che lo stesso ministro dell'economia Tremonti metteva lo spostare dalle persone alle cose l'imposizione come un elemento della evoluzione fiscale che dovrebbe avere l'Italia, quindi questo richiamo a spostare l'imposizione dai redditi personali, anche per non deprimere la possibilità di realizzare nuovi redditi, quindi di aumentare la ricchezza, alle cose, quindi ai consumi, facendo pagare poi soprattutto i consumi più elevati. Questo è uno degli elementi dell'evoluzione fiscale che lo stesso ministro Tremonti aveva prospettato. Sentiamo ancora gli ascoltatori. Umberto da Milano, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, ci dica. Buongiorno. Senta, guardi, io sono abbastanza pessimista perché l'Italia è in un evidente declino da almeno una ventina d'anni e noi siamo in mano a un governo che rappresenta un medico che ha sempre sbagliato la diagnosi sinora, perché il declino l'ha sempre negato e sistematicamente sbaglia anche la cura. Nel senso che non vedo nessun discorso di sviluppo industriale, di strategie di crescita, quali settori vogliamo sviluppare nel futuro, cosa vogliamo esportare in futuro. Vedo manovre rattoppate che sono state in qualche maniera forzate dall'Europa. Anche sulla evasione fiscale non sono credibili, perché se lei si ricorda, il primo provvedimento di Tremonti nel 2008 d'urgenza per decreto fu eliminare la tracciabilità, il registro clienti, eccetera, eccetera. Quindi io sono molto pessimista. Ecco, ringraziamo del suo intervento. Personalmente non condivido il pessimismo, bisogna essere ottimisti per natura, anche se molti elementi indubbiamente portano al fatto che è difficile, si troviamo in una situazione complessivamente difficile e le misure rischiano ovviamente anche di, le misure di questo tipo rischiano anche di creare appunto le condizioni non per non far crescere quella fiducia di fondo che dovrebbe essere fondamentale per riavviare il paese. Maurizio da Verona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche ai suoi ospiti. Niente, io ringrazio vivamente la BCE che ha inviato quella lettera al governo, perché senza quella lettera il governo, nessun governo di nessun colore politico in Italia avrebbe mai avuto il coraggio di incidere sulla spesa pubblica, perché non porta voti, quando invece è l'unica cosa da fare, anche se secondo me il governo ha sbagliato, perché ad esempio non ha messo la possibilità di licenziare i dipendenti pubblici. È inutile tagliare le province se i dipendenti vengono riallocati in altre amministrazioni. Il costo totale non cala, si cala quei pochi milioni del consiglio provinciale, ma non cala il grosso. È inutile che ci siano regioni con il doppio di dipendenti di altre parità di competenze e di popolazione. Bisognerebbe anche rivedere se esistono ancora le condizioni per avere 5 regioni a statuto speciale che ci costano l'ira di Dio. Magari aveva un senso nel 48, ma nel 2012 secondo me non ce li ha più. E dopo effettivamente sono d'accordo con molti altri ascoltatori che la tassa su la supertassa praticamente su chi già denuncia il 100% dei propri redditi e dargli una massata ancora ulteriore, insomma. La ringrazio, grazie per questa testimonianza. Ecco, indubbiamente licenziare i dipendenti pubblici è un metodo certamente drastico. La manovra pone l'attenzione sui dipendenti pubblici, la sollecitazione a una maggiore efficienza della pubblica amministrazione. Il taglio della politica forse è bene che riguardi in questa fase soprattutto i politici. Già abolire presidenti, assessori, consiglieri provinciali è una realtà, non si toglie il posto a nessuno, perché sono tutte persone che hanno anche un'altra professione. I dipendenti pubblici, gran parte, la grandissima maggioranza dei dipendenti pubblici fa il proprio dovere anche all'interno delle province, delle realtà locali, quindi è qualcosa che va sicuramente valorizzato e non ulteriormente penalizzato. Bentornati all'ultima parte di 9 in punto. Stiamo parlando della manovra economica, moltissimi messaggi al nostro 349-238-6666. Molti riguardano proposte alternative alle imposte che sono state emesse dal governo. Un ascoltatore dice tassate di più i tabacchi e gli alcolici, un altro ci dice tassate di più le cooperative, un altro ancora la lotta all'evasione è fondamentale, bisogna recuperare tutta l'evasione tagliando anche gli sprechi faraonici che le spese pubbliche fa, e dice si scaricano le tasse su chi invece produce ricchezza, e questo non è giusto. Non è facile essere ottimisti con questa classe politica di incapaci e così via. Quindi soprattutto una critica verso le misure imposte dal governo. Direi che un po' il tono di fondo è che si fa pagare di più a chi è più attivo, chi produce di più, chi produce ricchezza all'interno del paese. Bisognerebbe colpire maggiormente gli sprechi, colpire maggiormente le inefficienze della pubblica amministrazione. Sentiamo ancora un paio di ascoltatori. Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno, io sono un lavoratore dipendente, quindi evasione da parte mia non esiste, insomma. Ma non si rammarichi se non può evadere, fare il proprio dovere è anche qualcosa di positivo. No, io sono d'accordo col dottor Giannino quando dice che lo sta del ladro, insomma, no? Ma come si fa a dire non pagate le tasse quando poi le ruberie di Stato, le spese della pubblica amministrazione, c'è un sindaco che fa mette il bitume nelle strade, poi ne viene un altro, lo toglie e ci mette San Pietrini, insomma c'è qualcosa, chi è che controlla? Io penso che il debito pubblico si potrebbe azzerare controllando le spese, ma chi è che controlla questi sindaci e gli amministratori che fanno i lavori pubblici, che se poi va male un lavoro, chi è che paga? Paga sempre il cittadino. E allora perché l'evasore deve pagare le tasse? Beh, c'è un doppio controllo però sulle pubbliche amministrazioni: c'è il controllo dei cittadini da parte della politica, ma c'è anche un controllo della magistratura contabile, della Corte dei Conti. Ma nessuno va in galera. I beni, perché non si confiscano i beni? Perché si confiscano i beni Ma guardi, che nessuno vada in galera non è neanche vero. Ci sono dei sindaci che sono andati in galera per avere utilizzato i fondi pubblici per spese del tutto private. Magari sono andati in galera per 15 giorni, però hanno perso il posto, e quindi questo è già qualcosa. Pasquale da Caserta, buongiorno. Buongiorno, volevo aggiungere una cosa che non c'entrava niente, che riguardava la crescita, su cui mi pare che avete parlato. Volevo dire, ma conviene all'Italia che una parte del paese, 20 milioni di abitanti, quelli del sud, debbano non solo crescere, ma proprio essere messi sottoterra? Perché da 15 anni non solo non cresciamo, da 15 anni 80.000 dei ragazzi meridionali con laurea vanno in tutto il nord, ora praticamente nella manovra è previsto un ulteriore taglio dei fondi FAS che l'Europa ci destina per farci crescere, per cercare di metterci al passo con altri paesi più sviluppati, più capaci di dare gettito e capaci di dare tasse. Invece questa Italia non deve crescere, è dimenticata, occultata del mezzogiorno, e quindi di mezza Italia che potrebbe contribuire come tutti gli altri a pagare ancora di più tasse, perché mi piacerebbe che questo sud potesse pagare più tasse, potendo crescere, potendo permettergli di avere quello che non Roma ma Bruxelles destina, e che invece regolarmente questi della Lega Nord, che ormai hanno imparato il detto a Napoli, chi chiagna e fotte che ride, che parlano continuamente, si lagnano continuamente, ci sottraggono veramente risorse ingentissime. Che ecco, io sicuramente insostenibile, guardi, insostenibile. Mi sembra giusto spezzare una lancia per la crescita del Mezzogiorno, però anche ricordare che il Mezzogiorno dovrebbe anche aiutarsi un po' da solo, perché molti fondi europei, per esempio, le regioni meridionali non le spendono, non riescono a spendere per la loro inefficienza, non certo per la voracità altrui. Quindi è un richiamo a essere solidali con il Mezzogiorno, ad attuare misure che aiutino il Mezzogiorno, ma che soprattutto possano aiutare il Mezzogiorno ad aiutarsi da solo a crescere con una nuova capacità di essere imprenditori nel Mezzogiorno, per il Mezzogiorno. Stiamo avviandoci alla conclusione. Ecco, è difficile fare una sintesi complessiva della manovra. Ovviamente le posizioni sono diverse, le posizioni critiche, le posizioni costruttive pur critiche possono essere diverse. Moltissimi messaggi che stiamo ricevendo appunto sottolineano come si sarebbe bisogno di fare d'altro, a parte le solite cose: tagliare le auto blu, tagliare le precari della pubblica amministrazione, tutte cose giuste e doverose. Qualcosa peraltro in questa manovra si sta facendo. Da un punto di vista costruttivo però vorrei chiedere a Rinaldo Giannola e a Stefano Cingolani, poi concludendo con Alberto Rioli, che cosa si prospetta nei prossimi giorni. Uno scontro duro, uno scontro aperto, con il fatto che si arriverà, se sarà questo scontro, al classico voto di fiducia con cui verrà approvata la manovra senza cambiamenti, e quindi anche senza la possibilità di migliorare quello che può essere migliorato. Stefano Cingolani, ci si aspetta dal punto di vista politico uno scontro molto forte? Io penso di sì. Purtroppo vedo una situazione un po' greca, no? In cui ciascuno dice agli altri: beh, bisogna fare i sacrifici, dunque i sacrifici falli tu. Con questo sento anche questa grande sfiducia che c'è da parte degli ascoltatori, insomma, che esprime ovviamente lo stato d'animo del paese. Uno stato d'animo fondamentalmente negativo, e io credo che poi sarà colpa dei governi, della classe politica, della mancanza di leadership, insomma, di tutto quello che abbiamo, le caste, insomma, tutto quello che abbiamo detto. Però penso che forse ci sia bisogno di una maggiore consapevolezza di tutti, insomma, rimbocchiamoci le maniche, non può essere il rimboccatevi le maniche. Certamente hanno ragione tutti quelli che si lamentano sul blocco delle pensioni, eccetera, però rendiamoci conto che le nostre pensioni sono ancora, noi andiamo in pensione in condizioni vantaggiose rispetto a molti altri paesi. Noi non solo i giornalisti, perché poi c'è questa. Non solo i giornalisti, no, dico noi italiani in generale, insomma, no? Sia l'età pensionabile, sia le condizioni, il rapporto tra stipendio e pensione, insomma, ci sono delle condizioni favorevoli. Non è che voglio dire che dobbiamo ovviamente vivere peggio, ma insomma, o ci rendiamo conto che siamo dentro una crisi di fondo, una crisi strutturale, una crisi che ci impedisce nei prossimi anni di fare quello che abbiamo fatto negli anni precedenti, e oppure non ne usciamo. Io credo che questa consapevolezza non ci sia nella classe politica, ma nemmeno nella gente, nella società civile, diciamo. Non c'è una consapevolezza nazionale della gravità della situazione e degli sforzi da fare. Se ci fosse questa consapevolezza, anche la battaglia politica, lo scontro, le proposte, insomma, la battaglia politica, io non voglio fare il buonista, non sono un buonista, la battaglia politica deve essere anche dura, ognuno deve confrontarsi difendendo i propri interessi, le proprie idee, le proprie convinzioni, però dentro un quadro nazionale. Quello che mi preoccupa è la mancanza di questa diciamo, cornice di consapevolezza collettiva. Questo è veramente preoccupante. Se è così, io penso che non serviranno molto queste misure, penso che avremo di nuovo gli attacchi della perfida speculazione o delle massonerie internazionali, come le chiama Bossi, o quello che sia. Insomma, cioè avremo questa convinzione che l'Italia non è in grado di affrontare i suoi problemi, convinzione di fondo nel resto d'Europa sarà confermata. Grazie a Cingolani. Rinaldo Giannolo, un minuto per esprimere una posizione penso contraria. Ma io ho l'impressione che questa maggioranza farà molta fatica ad essere approvata in Parlamento così com'è, ma soprattutto per il fatto che già sui giornali e in televisione si vedono e si sentono delle dichiarazioni di ministri o degli esponenti di rilievo della maggioranza di governo che puntano a modificarla sostanzialmente. Se sono vere anche le anticipazioni che sono apparse sui giornali, persino Berlusconi insiste nel ridurre o addirittura cancellare il contributo di solidarietà, cioè uno degli elementi fondativi di questa manovra. In più ho l'impressione che politicamente questa maggioranza farà i conti a settembre con il ministro Tremonti, e quindi io non escludo che Tremonti, molto indebolito anche per le sue vicende personali, possa lasciare il campo tra poche settimane. Per far che cosa non lo so sinceramente, se ci sarà un altro governo, se questo esecutivo riuscirà invece a far approvare una manovra di qualche tipo che comunque garantisca i 45 miliardi in due anni. Però certo la situazione politica io la vedo estremamente fragile, cioè non c'è una leadership credibile, capace di guidare il paese in una situazione grave come questa attuale, e probabilmente solo un altro governo potrebbe fare un'operazione così di convincimento, di persuasione anche nei confronti dei cittadini chiamati così duramente a dare un contributo al risanamento. Ecco, questo è lo scenario politico, indubbiamente anche le tensioni all'interno della maggioranza, le posizioni diverse. Questa manovra è comunque frutto di un compromesso tra le varie anime della maggioranza, la Lega da una parte, che per esempio si è opposta molto radicalmente a una riforma delle pensioni, la Forza Italia dall'altra, ex Forza Italia, ora proprio la Libertà. Ecco, indubbiamente anche all'interno della maggioranza c'è del movimento e l'iter di approvazione della manovra sarà sicuramente complesso, con sviluppi politici tutti da vedere. Resta il fatto che la manovra è un decreto, è in vigore, bisogna attuarla, le misure sono già effettive, e quindi Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, nei prossimi giorni il Sole 24 Ore avrà un triplo lavoro per illustrare questa manovra nei particolari. Sì, sicuramente non sarà un sole ferragostano in senso classico, o meglio, sarà un sole molto caldo, per così dire, perché faremo per tutta la settimana una serie di guide tematiche, di approfondimenti con le analisi dei nostri esperti. Cominceremo a rispondere ai quesiti, analizzeremo il provvedimento a seconda degli obiettivi di riferimento, cioè le famiglie, le imprese, i pensionati, i lavoratori. E quindi ci apprestiamo a fare un grande lavoro di divulgazione e di spiegazione, ma lasciami dire che, per tornare a temi un po' più generali e per così dire politici, diciamo, se uniamo insieme il tenore delle telefonate e gli andamenti del FUZIMIB che hai raccontato poco fa, diciamo la verità, uno degli obiettivi principali che doveva centrare la manovra non è stato centrato, era quello di dare iniezioni di fiducia al paese. La fiducia è l'ingrediente che obiettivamente ancora manca. E la fiducia, ti ringrazio Alberto per averlo ricordato, è l'elemento di fondo, l'elemento fondamentale per far crescere il paese. Indubbiamente la fiducia nasce anche dal realismo, dal vedere i problemi come sono. L'Italia ha dei grandi problemi, ha dei problemi di spesa pubblica, dei problemi di assetto istituzionale, dei problemi di comportamento regolamenti e anche di etica pubblica, però già capire questi problemi e già fare un passo avanti per risolverli. L'Italia ha anche grandi potenzialità, grandi patrimoni, soprattutto un grande patrimonio umano, la passione delle persone nel fare le cose, nel criticare le cose, nel criticare anche chi non è d'accordo, ma soprattutto la passione nel fare le cose bene, nel cercare di guardare in avanti, non con un ottimismo di maniera, con un ottimismo che nasce dalla realtà. È questo che vogliamo e vorremmo portare avanti al di là di tanti problemi che però giornalmente mettiamo in luce. Ringrazio Alberto Violi, vice direttore del Sole 24 Ore, Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità, e Stefano Cingolani, editorialista del Foglio di Panorama, di essere stati con noi, così come ringrazio Roberto Scaltrizzi in regia, Alessandro Marco Tuni in redazione. L'appuntamento è per domani.